baccano, che succede? È la stampa, bellezza, la stampa. La rassegna stampa di Radio 24, a cura di Bruno Perini. E tu non ci puoi far niente, niente. La finanza mondiale non ha un governo. Gli USA hanno finito di dire agli altri che cosa fare, nessuno li ascolterà più seriamente. Dagli studi di Radio 24 un saluto da Bruno Perini, in regia con noi Filippo Aureggi, e il Sole 24 Ore stamane, a poche ore, come noi sappiamo dai GR, dall'approvazione del piano Paulson, intervista Mario Margiocco, Joseph Stiglitz, l'autore Mario Margiocco, inviato del Sole 24 Ore a Washington. E che cosa dice il premio Nobel Joseph Stiglitz? Vediamo un po'. Joseph Stiglitz, Nobel dell'economia nel 2001, lo ripete da anni. E questo giudizio netto, accoppiato al suo stile altrettanto netto, gli aveva cucito addosso l'immagine dell'iconoclasta. Tutto si può dire invece, ma non che l'analisi non fosse sufficientemente precisa proprio sulla mancanza di leadership. Gli Stati Uniti, chiede Margiocco a Stiglitz, sono in una preoccupante assenza di leadership e gli elettori e il mondo aspettano risposte. Quanto durerà l'attesa? Purtroppo questa crisi, già complicata e pesantissima, è caduta nel momento peggiore. A Washington c'è un presidente che è un'anatra morta, non un'anatra zoppa. Al tesoro c'è un uomo di Wall Street, cosa che certamente non aiuta. Il congresso è sotto elezioni, credo che occorrerà aspettare la prossima amministrazione a gennaio, insomma una combinazione infernale. Ma i mercati e l'economia non aspettano, certamente approveranno, e infatti è quello che è avvenuto, qualcosa tipo il piano Paulson entro i prossimi due giorni a Washington, ma questo non colma il vuoto di leadership, cosa che, ripeto, solo il prossimo presidente potrà fare. Ecco, come vedete, l'intervista è stata fatta quindi due giorni fa, ma il premio Nobel Stiglitz prevede che alla fine questo piano, che poi doveva essere approvato, è stato approvato. Ma che prezzo pagano gli Stati Uniti e il mondo per l'attesa? Non è possibile fare diversamente. Per gli Stati Uniti il prezzo è già altissimo, e ci saranno anche a livello internazionale, come ruolo dell'America, conseguenze severe. Quanto severe? Ne esce indebolito il ruolo di leadership nettamente. L'economia reale, dice Stiglitz al Sole 24 Ore, è ancora molto forte e non bisogna dimenticarselo. Il peso dell'economia americana, una volta ripulita dai guai finanziari, rimane tutto, e l'America continuerà ad essere un polo di innovazione, ma finisce la possibilità di indicare agli altri come andrebbero fatte molte cose. Anzi, finisce l'arroganza con cui per troppo tempo si è predicato agli altri che cosa dovevano fare. Che cosa resta del Washington Consensus, della inevitabilità, cioè unicità delle ricette liberiste, come si diceva 15 anni fa? Tesi che lei ha sempre rifiutato? Neppure l'ombra. Per me è sorprendente, tuttavia, come ancora oggi ci siano degli economisti conservatori che sostengono che ad aggravare questa crisi ci sia stata troppa regulation e che si rifiutano di vedere come la causa sia stato un eccesso spaventoso di debito, una cultura del debito. Non si può avere questo approccio fideistico alla cultura del mercato. Ecco, questo dice il premio Nobel Stiglitz nell'intervista che gli fa Mario Margiocco, inviato del Sole 24 Ore a Washington. E il Sole 24 Ore ha in prima pagina invece notizie rassicuranti da un certo punto di vista: pronti a difendere le banche, Consob interviene sulle vendite allo scoperto e Unicredit risale, Berlusconi, Tesoro e Banca Italia rassicurano i risparmiatori, il voto del Senato USA sul pacchetto Paulson. Siamo pronti a difendere le banche e i risparmiatori, una robusta iniezione di fiducia è arrivata ieri in simultanea dal Premier, dal Ministro dell'Economia e dalla Banca d'Italia. Non consentirò attacchi speculativi alle nostre banche, non accetterò che i cittadini italiani perdano neanche un euro dei loro depositi, ha detto Silvio Berlusconi. Quindi ecco, queste sono le notizie rassicuranti che in qualche modo ieri non solo hanno fatto un po' risalire la borsa, ma hanno fatto risalire soprattutto il titolo Unicredit, che ancora era trattato per eccesso, era sospeso per eccesso di ribasso fino a un certo punto della giornata, poi è scattata il rialzo fino a una percentuale di aumento di attorno agli 11 euro. Ecco, quindi il Sole 24 Ore poi però affida a Franco Locatelli un commento dal titolo Le buone ragioni per tenere i nervi saldi, 3 giorni di passione tra crolli e rimbalzi, in un anno borsistico da dimenticare scuoterebbero anche le certezze più granitiche, ma ha ragione da vendere chi ricorda che per le banche italiane non bisogna mai confondere la volatilità delle performance azionarie con l'instabilità. La prima è difficile da prevedere perché parte da lontano ed è legata alla tensione che la crisi di liquidità e di fiducia nati in America proietta sui mercati finanziari internazionali, ma la solidità si può invece verificare e affonda le sue radici nella particolarità del sistema bancario italiano. Quando si vedono i giganti della finanza americana tremare o fallire, i governi di mezza Europa correre in soccorso di banche di rilievo, è comprensibile che il disorientamento e la preoccupazione crescono e serpeggino anche da noi. Ma un conto è l'apparenza e un conto è la realtà. Ecco quello che poi dicevamo anche nei microfoni aperti, che il sistema bancario italiano è molto diverso per molti aspetti è più solido, ed è proprio quello che consente una maggiore sicurezza anche dei risparmiatori. Però Giacomo Vaciago, l'economista, scrive piani di salvataggio già vecchi per i nuovi rischi, nuovi rimedi. A proposito delle regole da ricostruire, i limiti di fondo del piano di salvataggio USA preparato da Henry Paulson è che cerca solo di sanare il passato, mentre ora abbiamo bisogno, scrive l'economista Vaciago sempre su Sole 24 Ore, di interventi proiettati verso il futuro, e c'è da sperare che il vertice europeo di sabato vada in questo senso, anche se le premesse non sono incoraggianti. Riflettiamo allora su cosa abbiamo imparato dalla crisi dell'ultimo anno. Nel secolo scorso il capitalismo ha avuto 2 decenni molto difficili, la grande depressione negli anni 30, la grande inflazione negli anni 70, disoccupazione di massa prima, inflazione a 2 cifre poi. In entrambi i casi abbiamo poi avuto una rivoluzione teorica che ci ha fatto capire quali erano i veri problemi. E qui Giacomo Vaciago quindi si sofferma su il Sole 24 Ore riporta in taglio medio di prima pagina le dichiarazioni che avete sentito del presidente di Confindustria Emma Marcegaglia sui contratti avanti anche senza la CGIL. Ora su questo naturalmente ci sono vari commenti, c'è chi sostiene che questo non sarà possibile e c'è chi invece sostiene che potrebbe anche essere una eventualità. Ora a questo proposito voglio vediamo se lo trovo. Epifani risponde, e risponde con un'intervista che compare sul quotidiano La Repubblica. Vediamo cosa dice Epifani. Io combattevo la scala mobile quando Emma era una bambina, no, perché bisogna sapere che l'avrete sentito dai GR, che in tutte le dichiarazioni che ci sono oggi sui giornali Emma Marcegaglia dice Epifani vuole un ritorno alla scala mobile, questo non è possibile, non è neanche pensabile. E ecco come risponde il segretario della CGIL, ripeto in questa intervista a Repubblica, è un'accusa del tutto fuori luogo, anche ridicola. Ricordo a Emma Marcegaglia che nell'84 io mi battevo contro gli effetti perversi della scala mobile, mi presi gli insulti per questo. All'epoca Emma Marcegaglia era poco più di una bambina, quindi non può ricordare, altrimenti non avrebbe detto quelle cose. Non permetto a nessuno di sostenere che vorrei ripristinare la scala mobile. Questa è l'unica frase che Guglielmo Epifani, segretario generale della CGIL, pronuncia alzando appena il tono di voce. Non ci sta lui con un passato socialista ad essere additato come il fautore di un ritorno alla scala mobile. Per il resto è con calma serafica che spiega le ragioni della rupture con la Confindustria, ma anche con CISL e UIL. Sostiene che gli industriali puntano a programmare la riduzione dei salari. Perché ha respinto la proposta della Confindustria? Non era d'accordo anche la CGIL a rafforzare la contrattazione aziendale? E così risponde Epifani: la proposta degli industriali opera due correzioni al ribasso, intanto abbassa la base retributiva dalla quale calcolare gli incrementi a livello nazionale. È un'operazione che, a seconda dei settori, può portare a una riduzione della base di partenza dal 12 al 30%. Più in concreto, chiede l'intervistatore, che poi è Roberto Mania, quali effetti avrebbe, per esempio, su un aumento retributivo del 6%, che anziché essere del 6% scenderebbe al 5,2% o al 4,2%. Ecco che cosa significa, ed è una cosa non tollerabile in una fase di progressivo impoverimento dei redditi fissi. Però al posto dell'inflazione programmata che il governo fissa molto lontana da quella effettiva, ci sarebbe un indice più realistico. Questo non sarebbe un vantaggio per le retribuzioni? Guardi che nella proposta della Confindustria quell'indice verrebbe depurato da un'inflazione importata, in particolare dall'aumento dovuto alla dinamica dei prezzi petroliferi. Che cosa vuol dire questo? Che i lavoratori pagherebbero due volte l'aumento della benzina e della bolletta energetica, una volta come consumatori, una volta come lavoratori dipendenti. Le sembra giusto? I clan camorristi come le Brigate Rosse, attacco allo Stato. Le carte segrete svelano la strategia dei casalesi, avevano un piano destabilizzante. Il quotidiano Il Giornale mette questo titolo in prima pagina e Gianmarco Chiocci scrive: si è discusso tanto di terrorismo camorrista, di guerra civile, di attacco militare alle istituzioni, e nelle carte della DDA, come nelle intercettazioni in carcere, effettivamente i casalesi hanno pensato ad alzare il livello di scontro. Le note dell'intelligence si sbilanciano oltre, ipotizzando attacchi destabilizzanti portati da gruppi allo sbando. Il riferimento più diretto è al pentito Luigi Diana, che a maggio 2007 racconta dell'ipotesi di un attentato per uccidere i giudici del processo Spartacus. È una svolta nella strategia della camorra. Ecco, questa diciamo il servizio che compare sul quotidiano Il Giornale, ancora dentro: così la camorra voleva colpire al cuore dello Stato, secondo i nostri 007 il clan aveva deciso di alzare il tiro. Nel mirino dei sicari, magistrati, scorte e pentiti, e ora è caccia aperta ai 12 super latitanti. L'inviato del Giornale a Caserta quindi dà in qualche modo, enfatizza la tesi che poi è quella del ministro Maroni. Infatti accanto c'è un servizio su Maroni. Maroni insiste: in Campania è guerra civile, precisazioni dialettiche, nominalismi, sottolineature. Un fatto è certo: il ministro dell'interno Roberto Maroni e il titolare della difesa Ignazio La Russa non usano lo stesso vocabolario. Ieri Maroni, ospite di Matrix, ha per ben due volte cavillato sulle affermazioni del suo collega, pur non nominandolo mai. Prima ha ribadito che quella ingaggiata dalla camorra è una guerra civile e non una guerra tra bande, come l'aveva definita La Russa. Successivamente ha precisato che l'invio dei militari nelle zone campane a rischio, da ieri 500 parà della Folgore sono a disposizione del prefetto di Caserta per posti di blocco e pattuglie anticamorra, sarà coordinato dalle prefetture, e cioè dal Ministero dell'Interno. Quindi, insomma, avvoca a sé Roberto Maroni l'invio di questi militari, perché sostiene, insomma, non si tratta di delinquenza comune, ma addirittura di un attacco al cuore dello Stato. Il quotidiano Il Giornale mette ben in evidenza anche un fatto invece diverso, diciamo di carattere giornalistico, una notizia che riguarda una grande firma del giornalismo italiano: lo strappo di Giampaolo Pansa, dico addio al gruppo Repubblica. E il giornale intervista anche Giampaolo Pansa, anzi gli dedica un'intera pagina: lascio l'Espresso perché voglio restare un bastian contrario. Il giornalista passa al Riformista dopo 31 anni nel gruppo Repubblica, insomma un bel colpo per il quotidiano Il Riformista, che si prende tra le sue file Giampaolo Pansa. Spero che tireremo qualche sassata nelle vetrine dell'informazione. Oddio, Giampaolo Pansa lascia l'Espresso e basta aggiungere che sta nel gruppo da 31 anni per capire che è una notizia. Luca Telese scrive di questo. Se ne va il Riformista di Antonio Politto. Notizia anche questa, come passare dalla squadra di Golia a Davide. Per di più si diverte a spiegare che per lui il giornalismo è un mestiere per bastian contrari. Subito dopo aggiunge: un giornale piccolo è meglio di un giornale grande. E poi racconta, insomma, dice: questo lavoro è il mio unico vizio, ogni mattina leggo e ritaglio 12 quotidiani. Il mio primo pezzo fu cestinato dal direttore della Stampa, provai dolore fisico. D'Alema di Medis, lo leggo sempre ma non capisci niente di politica, quasi come Prodi. Insomma, dice, i trucchi del mestiere: col binocolo ai congressi di C stavo 100 metri davanti ai colleghi per osservare meglio. Insomma, tutta una vi è anche un riquadro dal bestiario al revisionismo, una carriera controcorrente, e insomma si racconta ovviamente dei suoi ultimi libri, che hanno creato molta polemica tra lui e la sinistra, ed è proprio a questo proposito, no? Però volevo scusate, prima di passare a questo argomento, che poi riguarda anche la polemica tra il regista Spike Lee e alcuni che hanno fatto la Resistenza, e giornalisti anche, che dice Max Gallo sulla prima pagina del giornale, pone un problema che è un problema politico che riguarda davvero l'Italia, è un quesito che ogni tanto viene posto. Che fine hanno fatto i socialisti? Oggi, quando il capitalismo ha una crisi di quelle che sconvolgono profondamente le società e angosciano i popoli, si sentono solo le voci della Merkel, di Sarkozy, di Berlusconi e di Bush. Sono i capi di destra a parlare di come regolare il capitalismo, del ruolo essenziale dello Stato. Sarkozy martella che l'onnipotenza del mercato è finita. In Spagna e in Inghilterra, dove governano i socialdemocratici, Zapatero e Brown, i loro partiti sono impopolari. Chi ricorda la fine degli anni 90, quando 11 paesi su 15 dell'Unione Europea avevano guida sinistra, con i socialdemocratici Blair, Parsons, Schröder, Jospin, D'Alema, che a Firenze si riunivano attorno a Bill Clinton? Come spiegarne il calo? Crisi di successione dei circoli dominanti socialisti o fenomeno più grave che rimette in causa la stessa esistenza della socialdemocrazia? Questo Max Gallo sul giornale, che pone un problema, diciamo, molto, insomma, storico, che è appunto la sopravvivenza della tradizione socialista. Ora, vi dicevo, Pansa le sue polemiche con e i suoi libri, che hanno creato molte polemiche rispetto ai temi della Resistenza, di cosa veramente è avvenuto. E sulla Repubblica è proprio Spike Lee, il regista, che risponde a Giorgio Bocca. Spike Lee: caro Bocca, io non sono suo nemico. Caro Giorgio Bocca, ho letto ieri con grande interesse il suo intervento. Credo che lei si riferisca ad una mia dichiarazione a proposito dei partigiani che fuggivano sulle colline dopo gli attacchi ai tedeschi, fuori dal contesto in cui è stata pronunciata, ovvero durante una conferenza stampa a Roma e un convegno accademico a Firenze dal titolo Cinema e Memoria, organizzato da Mediateca e Regione Toscana. Signor Bocca, io non sono suo nemico. Io non sono nemico dei partigiani. Il mio discorso, dice Spike Lee sul quotidiano La Repubblica, completo, esprimeva il concetto che i partigiani non erano universalmente amati dalla popolazione italiana. Del resto, come poteva essere diversamente, visto che l'Italia si trovava nel pieno di una guerra civile, con famiglie lacerate, fascisti contro partigiani? Conosco la storia. Stavo facendo un esempio di guerra con tecniche di guerriglia. Le tattiche usate dai partigiani contro i nazisti sono le stesse usate da Fidel e dal Che a Cuba, dall'ANC nel Sudafrica, dell'apartheid, dai Viet Cong in Vietnam, dai Mau Mau in Kenya e dai miei antenati contro gli schiavisti in America. Questo dice Spike Lee nel suo intervento sul quotidiano La Repubblica. Abbiamo detto del Riformista, abbiamo citato Pansa, che ha dichiarato ufficialmente che passerà al Riformista, e vediamo quindi questo quotidiano. Il Riformista scrive: in un milanese che è noto ai milanesi, banche, che pensi mi, e naturalmente il riferimento è a Silvio Berlusconi. Berlusconi garantisce, difenderò i risparmiatori dalla speculazione. E subito il titolo Unicred si rialza in borsa. Ora, tra le cose che scrive il Riformista vi è la comparsa di Alessandro Profumo in TV. Profumo corre in TV, non mi dimetto. La strana intervista viene definita qui dal Riformista. Ieri Unicredit ha vissuto un'altra giornata piuttosto complessa, iniziata con una lunga sospensione per eccesso di ribasso e terminata con un rialzo di oltre 11%, alimentato anche da indiscrezioni di mercato relative alla possibilità che la banca possa essere oggetto di un'offerta congiunta di Intesa San Paolo e Santander. Per sostenere Unicredit è intervenuto il Presidente del Consiglio, che da Napoli ha fatto sapere che il governo non permetterà azioni speculative sulle banche italiane, un intervento che secondo gli analisti ha sostenuto le quotazioni del titolo, e questo mi pare evidente. In serata l'amministratore delegato di Unicredit Alessandro Profumo è apparso in televisione, un'intervista al TG1 in apertura del telegiornale condotta da Gianni Riotta e Attilio Romitta, che ad alcuni osservatori è apparsa irrituale perché ha enfatizzato la condizione di difficoltà della banca e del suo capo esecutivo. Profumo ha ovviamente usato toni di ottimismo, ha smentito recisamente l'ipotesi delle sue dimissioni, ma dice, quando gli è stato chiesto quali siano le condizioni del suo istituto, ha detto che non ci sono problemi, Unicredit è solida. Insomma, il Riformista sottolinea la stranezza di questa intervista televisiva. L'accordo senza CGL non conviene a nessuno, questo sempre il Riformista a proposito del dibattito, polemica ormai in corso tra il presidente di Confindustria Emma Marcegaglia e il segretario della CGIL Guglielmo Epifani. E scrive Marco Ferrante sul Riformista: l'accordo separato sulla riforma del modello contrattuale non è una buona soluzione per nessuno. Emma Marcegaglia ha risposto alla chiusura di Guglielmo Epifani sulla riforma dicendosi disponibile ad andare ad un accordo separato senza la CGIL. In parte sono schermaglie negoziali, la CGIL cerca di marcare un po' schematicamente l'alterità rispetto a CISL e UIL e la Confindustria reagisce, ma il rischio di una rottura esiste perché la trattativa è condizionata dallo scontro interno al sindacato e dalla dialettica nei rapporti tra le tre organizzazioni confederali e il Partito Democratico. Epifani ha chiesto l'applicazione di una clausola praticamente impossibile, fissare sul livello nazionale della contrattazione l'indicizzazione piena dell'inflazione reale, il che significa in sostanza reintrodurre un meccanismo di scala mobile, inoltre disseminato la trattativa di ostacoli. Però la tesi insomma della Riformista è che comunque sarebbe complicato andare a un accordo senza la CGIL proprio per la presenza e per il peso che la CGIL ha proprio sul tema della contrattazione aziendale. Ecco, questo il Riformista. Intanto volevo andare al Corriere della Sera. Il Corriere della Sera invece, Luigi Ferrarella, giornalista giudiziario del Corriere, riporta una notizia di cronaca che non ho visto da altre parti, che ha un certo interesse nella sua formulazione. 27 anni di carcere, 24 per aver assassinato l'amante dalla quale stava per avere un figlio e altri 3 anni per aver procurato la donna incinta uccidendola una interruzione di gravidanza senza il consenso della donna. È una sentenza della magistratura di Milano per un delitto avvenuto nel 2006. E degno di nota e importante proprio per quella, quasi doppia condanna. Il reato minore non è stato incorporato nel reato maggiore, ma si è aggiunto, quindi 3 anni in più, e questo per dire che potrebbe fare testo questa sentenza che è avvenuta a Milano a proposito di un condannato a 24 anni per l'omicidio e 3 per l'interruzione di gravidanza. Il doppio reato. Il Corriere della Sera, a parte c'è la vignetta di Giannelli, dicono che i conti bancari sono sicuri, soprattutto quelli a debito, dice il capo famiglia seduto a tavola. E poi il Corriere della Sera ci propone 2 interviste, Marina Berlusconi che polemizza con il segretario del Partito Democratico mentre il mondo è in crisi, Veltroni parla di regime, mai come in questo momento c'è stato bisogno di governi che decidono. In questa intervista Marina Berlusconi dice il governo di Silvio Berlusconi, cioè suo padre, decide ed è questo importante, mentre c'è un Luciano Violante che dice io togliattiano vado alla festa del Partito della Libertà, vado lì a dialogare a servizio del paese, non di Berlusconi. Questo il Corriere della Sera. Per tornare alle vicende della borsa, di quello che è avvenuto attorno a Unicredit, c'è da capire perché Silvio Berlusconi e il ministro del Tesoro e diciamo tutti i principali esponenti del governo hanno detto non consentiremo attacchi alle nostre banche. Rosario Di Mito sul quotidiano Il Messaggero in qualche modo ce lo spiega: così la finanza di carta arma la speculazione contro l'Italia, l'onda lunga degli effetti di questi prodotti strutturati si sta facendo sentire anche da noi. L'Italia in queste ore, scrive Di Mito a conclusione del suo ragionamento, sta subendo l'onda lunga della crisi europea nata negli USA dai subprime e la speculazione sta giocando al ribasso. Ieri ne hanno fatto le spese Unicredit, Intesa, Banca Popolare, Fiat, sospesi a ribasso. Le autorità che avrebbero dovuto vietare prima il prestito titoli hanno evitato il peggio. La paralisi del sistema bancario può frenare consumi e investimenti. Per fortuna in Italia famiglie e imprese hanno ancora le spalle larghe, ma attenzione a non insistere a livello internazionale sul feticcio fair value uguale market value. Se crolla il secondo a causa della speculazione e del fallimento di mercato, anche il primo ne risente. Insomma dice stiamo attenti a non giocare col fuoco. Unicredit altalena in borsa, Profumo siamo solidi e sani. Quindi secondo Il Messaggero, Rosario Di Mito dice c'è un vero e proprio attacco speculativo e forse è da qui che si giustificano le parole di Silvio Berlusconi e di Giulio Tremonti a proposito della speculazione, soprattutto le prese di posizione della Consob. Il quotidiano Libero, Berlusconi e risparmiatori non perderete un euro, il premier assicurante tranquillizza sulla crisi finanziaria, non consentirò attacchi speculativi alle nostre banche, come vi dicevamo. Il quotidiano Libero diretto a Vittorio Feltri mette in prima pagina anche una difesa diciamo così della Gelmini. La Gelmini sotto tiro, ora si esagera contro il ministro, un'indegna campagna politica e sindacale, quindi una netta difesa della Gelmini. E Gianluigi Paragone, vediamo se troviamo questo lungo articolo, ma forse comunque è evidente la presa di posizione netta a favore del ministro Gelmini. Lezioni della maestra, dettate morale contro la Gelmini. L'insegnante detta agli alunni un avviso di protesta al decreto del ministro, pronto un'interrogazione parlamentare del PDL. Ecco sì, mentre il quotidiano Il Manifesto titola in polemica con Emma Marcegaglia e con il presidente della Confindustria, rifiuti industriali. Faremo l'accordo con CGIL e UIL anche senza CGIL. Emma Marcegaglia sbatte la porta in faccia a Guglielmo Epifani, tira dritto sulla controriforma del controllo di lavoro e prepara lo scontro. Vi è anche una vignetta di Vauro, come al solito abbastanza cattivella, Confindustria sindacati e scontro tra Bonanni e Angeletti. Ma se è Epifani che non ha firmato, sì, però loro si sono azzuffati per chi firmava prima. Ecco, come dire, insomma, una polemica di Vauro con questo atteggiamento di voler firmare subito da parte dei due dei tre sindacati. E poi anche c'è Gabriele Polo, che è il direttore, uno dei direttori del Manifesto, che scrive attacco finale. Oggi è tutto più grave, più difficile, per farvi fronte è necessario un di più di soggettività e coraggio che in termini sindacali può sfociare in un solo atto, lo sciopero generale. Ecco, quindi la fine di questo ragionamento è lo sciopero generale. Abbiamo finito il nostro tempo, vi cito solo il titolo dell'unità: Confindustria vuole eliminare la CGIL, questo è il titolo d'apertura dell'unità. Adesso vi saluto, ci sentiamo alle 8.30 al microfono aperto consueto, potrete telefonare anche un po' prima all'800 24 00 24 per intervenire in diretta.